di sé. Beh, ti ho chiamato, cosa fanno? È ripuglio. Buh, buh, andiamo, vai, andiamo. Sa dove mi hai chiamato? Qua? Io. E poco fa non c'ero, qua. Ah, non c'eri? No, oh, no, mi stavo per uscire, là. Sono lavato, cambiato. Mi sto vestendo, sto per uscire. E sei così basso? Perché non sono a casa. Ah, sono andato a cercare. Bene, bene, bene. Così, tripo. Ascolta, Miroli, è come ti sta arrivando il zio Claudio lì, in quelle coordinate che ho tirato, sto iniziando a tirare appena su la potenza di questo 30. Sì, sul più sei claro. Comunque è molto meglio l'MC60 dell'MP5, eh. Questa mattina mi sono dimenticato di dirtelo, ma molto meglio il 60, non c'è paragone. Ehi, questo è il 60, infatti già te ne sei accorto. Beh, ma avrò un abisso, bro. Ehi, esce bene, niente da dire, ma questo proprio si sente l'acuto bello che ha. Lascia perdere. Ripeto, quello va bene lo stesso, ma questo è molto superiore. Ho di bussù di chi 250, chi te sento. Ascolta, l'ho visto che sei lontano, adesso ti abbasso la potenza. Mi hai detto sono sul più, così è, adesso sono sul più. Sì, vai. Guarda a vedere, abbassato la potenza, com'è adesso? Adesso sei 9,10 a picchi di 15. E sul più quanto è? Sul più sei quasi sui 30, capito? Minchia, già sale poco, da 10 watt a 50 watt, e alza bocci. Spingi, come? Allora lo rimettiamo a 50 watt, che adesso già l'ha fatto l'oraggio, ce l'ho 2 giorni acceso, 3 giorni, che mi ha detto di tenerlo un paio di giorni, un po' di giorni a basso regime, allora avremo dato d'oro la battezza gioia. Ma anche la notte lo lasciavi acceso, con il volume basso? No, farlo andare, usarlo a potenza bassa, capito? Però adesso ne sono 3 balle, l'ho messo a potenza chiusa sempre. La radio è buona, quindi, MC60 di nuovo ho messo. Ehi, Acla, è una... non una bomba, una bombetta. Aspetta un attimino che mi sposto la camera, che vado in bagno, là. A mettermi una puntina di gelatina, mi devo anche vestire ancora il golfo, mi devo mettere giù un moto, insomma. Un attimo. Ehi, tappati, anche a me un bel freddo, No, Cla! Ah, Raru! Dai, io ti saluto che sto uscendo, devo salire a casa della mamma anche. Ma ci sentiamo domani, Cla, ciao, buona serata. Ciao, Lugarie, buona serata anche a te, dai, saluto a Marina, ciao. Via, saluto anche Anna da parte nostra, ciao, grazie, ciao. Ciao. Ciao Nicola, buonasera, ti ascolto basso. Sì, ti ascolto, mezzo al QRM, comunque riesco a ascoltarti, Ma dove sei, a casa? Va bene Nicola, ricarica le batterie, già sono qua in ascolto io, a dopo. C'è qualcuno su 10? Si cucano a 10? Ah, 1, 2, 3, prova. Ciao Giulio, Marco, sì, c'era Claudio, c'era Luca. Claudio dovrebbe rientrare, Luca è uscito, poi ha fatto capolino anche Nicola. Ciao Giulio, io mi sto pigliando il caffè. Ciao Marco, fai bene, dopo pranzo il caffè, io dico pranzo perché intanto so che questa è l'ora del pranzo per te, non della cena, ma del pranzo. Sì, tutta una vita scoordinata. Mi stavo seguendo il discorso ieri, io sono dovuto correre dei pari, Giulio, e pigliare il decaffeinato, perché io non ne prendo molti, ne prendo 2, uno la mattina e uno la sera, però di sera rigorosamente decaffeinato, se no non comincia a andare male la storia. Vediamo se è rientrato Claudio, così io stacco qua, che tanto non fa roba. Claudio, sei rientrato? No, magari sta facendo anche lui roba a casa. E io Giulio, sì, comunque è vero. C'è chi è più sensibile alla caffeina e chi meno, capito? Sì, no, ma io non ne prendo proprio per quel motivo lì. Se no la notte mi tocca passare da sveglio, per cui no. Ma anche prendendo la mattina, amiche, e non molto tardi, anche presto. Se prendo caffè presto, ho la sensazione che anche mettendola nel latte per fare un cappuccino, che mi fanno sempre lo stesso effetto. così, e allora evito di prendere il caffè. Sì, infatti, poi se ti piace il sapore, lo prendi decaffeinato, insomma. Io non ero tanto caffeinomane un periodo, però a me piace nel latte da solo, così, insomma. Va bene Giulio, io qua lascio acceso, ma tanto non resto, non riesco a rimanere fermo qua. Ok, dai, sentiamo, buona serata. Ok, ciao Marco. Sì, anche a me diciamo che il sapore piace, però non è così necessario prendere. Vabbè, là, ci sentiamo, ciao, ciao. 1, 2, 3, Stella. C'è qualcuno sul canale 10, ascolto? 1, 2, 3, prova 10. Ah, prova. Chi è quell'amico basso, chi è? Avanti, chi è con la modulazione bassissima? Vediamo un po' se riesco ad ascoltarti bene. C'è qualcuno? C'è qualcuno qui in ascolto? Ciao Giulia, buonasera. Due minuti per questo sotto una telefonata da uscire. Tutto bene? Sì, tutto bene. Devi uscire? Ha pagato un po' di freddo, deve andare. No, devo andare da mia figlia che mi ha organizzato un rinfresco, insomma, per la festa del papà, niente di che. Ok, ho capito. Vabbè, allora, approfittane qua. Tanto, cosa ci prendi? Anzi, ci guadagni. Quando non si mai nulla, si approfittando, vabbè poverina, ci appagherei comunque. Mi ha detto, no, verso le 8, vado, verso le 8, capito? C'è un'oretta, che c'è un po' di calma a quell'ora, anche se è venerdì oggi. Però già c'è la saletta sopra, perché c'è la saletta sopra il bar, no? E quindi per organizzato lì. Kappa, ascolta, ti volevo chiedere, vabbè, sto usando sempre il 60, il segnale è buono che ho tirato appena un po' più sulla potenza del 430? Sì, è 9 più 18 mi sta segnando, sì, infatti stamattina eri un pochino più basso, ma comunque già va bene così, non c'è problema. Insomma, questo 9 più 20 non me lo dai, neanche così arriva a 20, 1, 2, 3, prova. Neanche così arriva a 9 più 20. No, non arriva, nemmeno quando hai picchiato. Ci manca un cc, ci manca 9 più 20. Insomma, me devo prendere questo più 20, neanche così. Ora. Neanche così arriva a 20. Diciamo che ci sei qua sopra, però non sei proprio centrato a 20, possiamo dire 19, eh? Vabbè, dai, tanto sei pignolo, no, perché mi dai sempre 18, e invece tirando sulla potenza se riesco ad arrivare a 20, e invece non arrivano a te, se vabbè, non fa niente, sto scherzando, beh. L'importante è che la radio sia buona. La radio non si discute, già lo sai, no, quello non c'è dubbio, è sempre quella, la radio è sempre quella, la tua. Va bene, kappa, no, perché mi ha detto il tecnico di non tirarlo i primi giorni, capito, ha fatto dei lavori particolari, quindi mi ha detto tienilo un po' in funzione a pochi watt, adesso ce l'ho già 3 giorni in funzione, quindi adesso l'ho rimesso come lo uso sempre, 20 watt, 50 modulati. Ok. Se vuoi ti mando il video che quando stai modulando, così vedi lo smitter dove arriva. Ma la radio mi interessa, mandamelo, un video piccolino, appena, mi interessa saperla, perché come posso ascoltare, non c'ho altre radio, radio Gerolica, e boh. Sì, aspetta, lasciami organizzare con la telecamera, o meglio col telefonino. Poi ti dico io quando devi parlare, dai. Ehi, va bene che va bene, dai. Giusto così per capire se sta andando bene, perché ancora non l'ho manco sentito a dirle che è tutto a posto, che la radio va bene, la sto tenendo sotto controllo. Dai, provo a parlare, a vedere se sta registrando, penso di sì, dai. Ok, kappa, va bene. No, era giusto così una... un'informazione tecnica, perché se lo chiedo qua ai miei vicini, siamo troppo vicini, Roberto qui addirittura mi deve attenuare per poter avere un riscontro bello, invece tu sei un po' più distante, quindi va bene, dai. Ok, giusto per capire, niente di che, a te ancora K. Ok, adesso te lo mando, una piccola registrazione te l'ho fatta, speriamo che sia uscita bene, che sia venuta bene, adesso te lo mando. Ok, grazie Giulio. Oh, yeah, yeah. C'era Luca poco fa, però stavo uscendo, non mi sto aspettando, quindi mi telefonino per andare, così andiamo a fare questa cosa, sono cose belle ogni tanto. C'è propagazione, stavo ascoltando quello che faccio i canali alti e c'è propagazione. Sì, prova adesso a vedere, perché non so poc'altro che sono riuscito a trovarla. Prova adesso perché te la rifaccio la cosa, il video lo rifaccio, riprova Claudio. Sì, cappa, vedi un po'. Non fa niente di particolare, intanto mi fido della tua, di quello che mi dici, non c'è problema, non è che devo vedere per forza il video, mi interessava solo sapere il segnale, se la radio è a posto, perché ti ripeto, sto tenendo sotto controllo questo 430 che era al centro assistenza, però penso che vada bene, è un'ottima ricezione, un'ottima trasmissione, quindi va bene. Ok, vediamo un po', avanti. Ok, adesso una blocco, dai, 55, 56, 57, 58, 60 secondi di video, adesso lo blocco, dai. Blocca, mandamelo. Ecco, te l'ho mandato, adesso ti sta arrivando, L'hai mandata, Giulio? Sì, l'ho mandata e sta arrivando, aspetta che si sta caricando, siamo a un quarto di ricarica, adesso ancora non è completato il cerchio, si sta arrivando comunque, fra qualche secondo ti arriva. Ehi, va bene, aspetta la nostra telefonata, vediamo, ci arriva, siamo quasi a metà del cerchio, deve completarsi ancora, dai. Già ti arriva, fra un po'. Abbi pazienza un attimino, poi già arriva. Comunque sta uscendo molto bene, a voglia, sarà grande. Meglio così, dai, non mi ha creato mai problemi questo 430, la verità. Ho voluto darle una sistemata, una revisione, così detto, altri 10 anni, ecco la telefonata, aspetta un attimo. Ok, è arrivato, sì. Aspetta un secondo Giulio, arrivo subito, perdonami. Ok, claro, d'accordo. Grazie del video, grazie di tutto, le due chiacchiere. se rientro presto, ci sentiamo dopo, ok? Ok, ciao qua, alle prossime. Buon divertimento, dai, ci sentiamo, ciao ciao. Ciao, ciao, ciao. Marco, ancora ci sei? Hai chiamato Giulio? Sì, ho detto, ancora ci sei, sì. Finito a riprendere. Sì, sì, quello da prima. Quello da prima, sto facendo cosette qua. Giulio, noti qualsiasi tipo di distorsione nella modulazione? No, no, è perfetta. E anche il segnale è ottimo, veramente. Guarda, mi stai arrivando quasi, quasi col segnale di Claudio, sicché ti puoi immaginare. Vabbè, qua c'è la... stavo provando una... come si dice, una corrispondenza, Giulio, cioè il McKinley, il President, con l'aiutino, perché con l'altro esce completamente in distorsione totale di radio, eppure i watt sono sempre 3-3,5, non ho capito quale sia il problema. Saluto Marco, Giulio, ciao Marco, ma sei attaccato? Sì, stavo facendo una prova e c'è un problemino che non riesco a risolvere. Ciao Claudio, e... sì, sì, confermo. No, te l'ho detto perché voglio confermare anch'io, appunto, che questo orario, se lo sto usando il 4.30, lo stesso segnale di come mi arrivavi col 4.40, 9.40 si è attaccato, va bene, non so quanto ti sto arrivando, però dovrebbe andare tutto bene, dai. Ok, vi saluto, che sto uscendo a portare il cane, riprendi Marco e fai girare per Giulio. Eia, sì, ho sentito che gli ha fatto fare la revisione, poi mi direi da chi, perché Bianconi credo che non sia nemmeno più attivo, revisione totale presumo, no? Eia, sì, stanno benissimo, la modulazione è quella storica, che dire di più. Vai Giulio. Sì, infatti vi ho fatto il video, gliel'ho mandato, ma è perfetta, la modulazione è perfetta, anche il segnale è quello, per cui va benissimo così, non c'è problema. No, no, ha fatto un bel lavoro col tecnico, l'ha rimesso in ordine proprio alla perfezione. Prima o poi dovrò farlo fare anch'io, questa radio qua. Però ancora già sta andando, io pretendo più di tanto, non ne ho. Ad ogni modo non sarebbe male fargli fare anche qua una bella ripassatina. Ok, avanti. Sì, dai, ti rispondo e poi vado. È una persona onestissima, poi ti farò sapere se sei interessato via WhatsApp o per telefono. Ti do tutte le indicazioni, se hai problemi, è una persona molto onesta, seria e molto, molto brava anche. Ok. No, io non c'avevo niente la radio, Giulio, è 10 anni. Io questa l'ho presa da Walter 10 anni fa, non è mai stata revisionata. Fabrizio mi aveva cambiato il display perché si erano bruciati gli ultimi 2 decimali e basta. E quindi aveva necessità di una revisione completa, è stata cambiata tutta la cavetteria all'interno, tutto il kit dei cavettini interni, quelli fini con le spinette, perché giocavano, avevano consumato, e saldature non ce n'erano più, una revisione totale. E ti dico che è tornata alla perfezione, tant'è vero che mi sono fatto fare anche praticamente la regolazione della potenza come dalla casa, senza essere tirata, quindi in AM questa radio deve avere 40 watt e da 40 watt, 20 di portante e 40 modulati, non di più, in SSB da 100 watt pieni, in FM 100 watt pieni, in AM l'ho fatto fare così, perché è inutile sforzarla, dura un'eternità, mi ha detto lui, quindi quando i tecnici dicono così a volte bisogna anche ascoltarli, perché sennò crea un sacco di problemi, capito? Tutto qua, comunque quando sei interessato me lo dici, lo chiamiamo, ti do l'indirizzo, ti do tutto, è una persona veramente in gamba. Ok Marco, per te non riprendo più, vi saluto, a dopo se ci siete, vai. Cappa, sì, magari al momento riparazioni no, però è buono sapere che c'è qualcuno che le fa, ovviamente con giusto compenso, eccetera, fa anche Radio Kenwood, quindi, visto che Bianconi non è più gana, bene. Alla fine il 4.30 è quello che va meglio di tutti, di quella serie là. Il 4.40 ne ho letto lo stesso, troppi problemi, a qualcuno gli ha rifatto il problema dei segmenti che sparivano, roba del genere, quello dei puntini, scusa, non i segmenti, i puntini, quella roba del VCO è una rogna un po'. più di tanto non conviene investire anche per radio di una certa data. Eia, va bene, adesso che ho visto che funziona tutto, Giulio, posso reinscatolare e ributtare tutto nell'armadio, riprendi. Ok, va benissimo Marco, non c'è problema. La tua solita radio, bella, pulita, chiara, è anche forte, per cui il segnale, vabbè, ti stai aiutando un tantino, però il segnale è l'ultimo, 9 più 18, sì che siamo lì. E non è poco, insomma, ecco, non è poco. Sì, a riguardo di questa mia radio, il mio problema è che questa in AM non li dà i suoi 100 watt, arriva se no 40 massimo, quando arriva non sempre, alle volte nemmeno 40 arriva, per cui dovrò fargli fare un bel ripassino. Mentre invece in FM ho visto che quando schiaccio la portante va a fondo scala, cioè i 100 watt me li segna. Adesso non lo so se in AM deve dare 100 watt pieni o perlomeno se in AM rimane così intorno ai 40, anche questa come il 430, questo non lo so, io queste cose non lo so, però diciamo che sta andando bene, ecco, la radio sta andando bene, perché io sento molto bene, aspetta un attimo, per cui da fuori collego, anche poc'anzi sentivo un pochino di preparazione, basso ma sentivo, va bene, vai Marco. Sì, scusa, ti riprendo io Giulio, che ho chiesto la cortesia a Marco. Ricordati che tutte le radio 140, C80, 440 e 430 in AM devono dare 40 watt, se tu ti apri il manuale serie c'è scritto, tutte quelle che danno oltre 40 watt sono toccate, nel senso che sono spinte, sono state toccate le resistenze variabili all'interno per far levare più potenza, oppure fatte delle modifiche. Ok, io le ho avute sempre così, la verità, non mi hanno mai creato problemi, però tecnicamente mi ha detto che è meglio tenerla con la sua potenza, perché in AM purtroppo avendo la portante fissa la radio scalda troppo e può creare problemi, lavora troppo male il finale, capito? Questo mi ha detto, questo ti sto dicendo, e quindi io le ho detto guarda, allora facciamo una cosa, per non sapere né leggere né scrivere mi lasci la radio in SSB in FM come deve andare dalla casa e in AM la metti come deve andare dalla casa, e così ha fatto. E ti dico che posso regolarla da 0 a 40 watt tranquillamente, i picchi sono positivi, però non ha tutta questa boom boom boom boom boom, capito? Tutti questi movimenti di smittere. Va benissimo, alla grande. Cioè da manuale questi tipi di radio devono andare 40 watt in AM, 100 in SSB e 100 in FM, capito giù? Quindi se quella va a 100 watt in AM vuol dire che è toccata, vuol dire che è stato aperto la potenza dall'interno. E ti consiglio, se la mandi a mettere a posto, a fare la revisione, di fartela regolare tecnicamente a strumento e non la devi toccare più, perché la radio va molto molto meglio. La mia è fredda, completamente ghiacciata, cioè nel senso che, e mentre invece quella che avevo prima scaldava parecchio, perché era toccata, tutto qua. Ok Marco, a te, scusa se ti ho preso il mic, vado. Eia. Dai Marco. Eia, adesso stacco, farò una prova. Dovrebbero essere o 3 o 3 e mezzo, aspetta, ecco, non ho lo strumento attaccato, sì, 3, 3 e mezzo al minimo, minimo sindacale, eia. Sì, Claudio mi aveva chiesto un controllo di segnale, vabbè, qua ovviamente è incollato, questo è a LED poi. Questa LED c'ha 10, 20, 30 e sempre al più 30, no? Di meno, di più non segna. Ok Marco. Sì, beh certo. Sì, no, ma è così, infatti. Allora praticamente questa mia va bene, se da 40 watt in AM dovrebbe essere così, allora è perfetta. Perché quando metto FM la lancetta arriva ai 100 e a voglia anche oltre. E anche in mano. 100 FM è in SSB, in AM 40, diglielo tu, ciao. No. Io dovevo arrivare a fondo scala, cioè con i suoi 100 watt, invece Claudio mi sta confermando che deve essere 40 watt, il massimo è la M, e allora va bene così, allora è perfetta, anche perché fastidi non me ne sta dando, la radio funziona bene, sì, si sta un po' invecchiando come colore, perché il suo grigio ormai è diventato un grigio un po' vecchio, però quello non è un problema, basta riverniciarlo, ma ad ogni modo mi va bene così. Cioè, preferisco a qualsiasi malattino, preferisco tenere sempre questo, perché no, non c'è paragone, perché tu metti qualsiasi malattino a confronto, non può essere confrontabile nemmeno, perché questa è una radio come si deve. Devo dire che va bene, c'era il problema dei puntini, ma questo già da 2 anni fa, e poi Fabrizio gentilmente me l'aveva sistemato e non ha fatto più nessun difetto, e va benissimo alla grande, non c'è problema. Va bene, avanti ancora Marco. Sì, credo che sia andato a portare il cane adesso. Va bene. Vabbè Giulio, io proseguo, allora qua oggi c'è anche poco da ascoltare, 27, non ho sentito voi due, poi Nicola di sfuggite, e quindi mi stavo dedicando un po' con più per roba del genere, e ho trovato una cosa ambigua, non ho capito siano virus, cosa siano, era in rete acceso per un bel po' XP, ho trovato delle, come se avessero azionato da remoto delle applicazioni, dei programmi, ma vabbè, a meno che non sia passato il gatto sulla tastiera, è cosa più probabile. È possibile, Marco. No, l'ultima notizia adesso, mi freschissima, è che da lunedì non siamo più bianchi ma bensì arancioni, perché qua sono aumentati i contagi, per cui da lunedì siamo di nuovo arancioni. Non è possibile, non se ne esce più questo virus, non se ne esce più, per l'incoscienza della gente soprattutto, visto, sono arrivati quei pellegrini da fuori e subito qui è salito il contagio. E da lunedì siamo arancioni anche noi qua, non è possibile, ma comunque, cosa volete dire? Purtroppo la gente non la vuole capire, pazienza. Però è un danno per noi, soprattutto per il mondo del lavoro, almeno col bianco la gente lavorava qui in Sardegna, mentre invece con l'arancione ci sono delle restrizioni che non fanno certo comodo e soprattutto non fanno bene al mondo imprenditoriale. Ma comunque staremo a vedere. Cioè di nuovo arancione o gialla che sia? Ho perso i colori adesso. Adesso ci sono anche le sfumature, tipo arancione rafforzato, cioè punta a capo. Ma questi non sono i turisti, Giulio, che ci sono i sassaresi, che li vedo, i giovani soprattutto, ammassati ai tavolini, tutti in braccio l'uno all'altro, non è cambiato niente, come il primo giorno di Covid stanno continuando a fare i giovani anche un po' meno giovani, si inaffuttini. Vabbè, il vaccino risolve tutto, io se posso non ne voglio fare. C'è gente che in uscita si è abitato anche morta, dice sono casi rarissimi, però questa roba è sperimentale, non si sa che danni avrà a lungo termine, medio e lungo termine, non sai che danni farà in futuro, se sviluppi patologie, tumori, cosa ne so io, è tutto un intruglio, tutta roba sperimentale che stanno sperimentando sulla gente. Io preferirei piuttosto astenermi dall'andare a gozzovigliare nei bar o nelle campagne, nelle cene, fare vaccinare gli altri e aspettare che passi la tempesta. Sì, quello sicuramente, però se ti chiamano ti mettono in lista, se non ci vai poi ti mettono all'ultimo posto o poi quando sarà il momento, perché prima o poi si dovrà fare questo vaccino. Non so, sarebbe bene che si eliminasse senza bisogno di essere vaccinati tutti quanti, però al momento sembra che sia l'unica soluzione per poter eliminare il virus. Purtroppo è così. Sì, l'ultima notizia adesso, fresca, me l'hanno appena data, che arancione da lunedì, perché sono aumentati i contagi in Sardegna. Vabbè, dai, comunque, che Dio ce la mandi buona. Sì, comunque è così, cioè mentre noi, come posso essere io, tu, ho capito che stai uscendo praticamente poco e niente, se non l'indispensabile, anch'io non è che vado nei locali a trattenermi, io lo faccio così per fare la spesa, certo un po' di uscita ci vuole, un caffè al bar però, preso, entrato e uscito, no al bivacco, capito? vaccinazione del Menga. Sì, ma poi sai cos'è Giulio? Per i vaccini ti costringeranno, tranquillo. Cioè, ti costringeranno tutti, cioè adesso stanno iniziando col passaporto europeo, passaporto sanitario l'hanno definito, in modo che se non sei vaccinato non viaggi all'interno, presumo, dell'Unione Europea. Poi cominceranno, allora se non ti vaccini non entri al lavoro, benché non sia obbligatorio per legge, ci vuole una legge dello Stato per obbligarti, o un'ordinanza di un giudice per fare trattamenti sanitari forzati, potremmo dire, no? Però i datori di lavoro cominceranno, al lavoro non entri se non sei vaccinato, lì devi fare causa e passare 20 anni in causa. E poi cominceranno a non farti entrare negli uffici pubblici, e fra un po' non faranno entrare manco a fare la spesa. Se uno non ha questa certificazione o elettronica o cartacea di come ha fatto il vaccino, quindi ricordati che la gente si vaccinerà non perché magari tutti si vogliono vaccinare, ma col ricatto, che è una cosa un po' più brutta da dire, e che comunque faranno, e io aspetto l'ultimo momento, quando mi obbligheranno lo farò, si spera che vada tutto bene. Beh, indubbiamente sì, se se ne può fare a meno, il più possibile è meglio. A me mi hanno telefonato un'ora e mezzo fa che c'era una rimanenza di vaccini, se volevo fare il vaccino io, però se non hai gli 80 anni non li puoi fare, siccome pensava questa persona che io avevo già gli 80 anni, invece no, non ne ho nemmeno 79 ancora, per cui 79 ce li avrò il prossimo mese, il giorno 29, e cioè in aprile, per cui non ero predisposto, perché per gli ottantini e oltre questo vaccino, siccome sono avanzati dei flacconi, delle fiale per non andare perduti, e poi non riesco per quale motivo devono andare perduti, cosa vuoi che ti dica? Boh, evidentemente qualcuno è stato chiamato e non ci è andato a farsi vaccinare, e allora succede che si perdono anche le fiale, ma comunque andiamo a vedere. Comunque sto usando l'MC60 in questo momento, con Marco. Stamattina, vabbè, ho usato anche le BBQ4, però diciamo che va benissimo. Mi sono ascoltato con questo e mi sembra che è anche più bella ascoltandomi con l'altro baracchino in quelle cuffie. Adesso sto facendo lavorare questo il microfono, visto considerato che ero qualche mese senza usarlo questo. Vai. Sì, qua vabbè, io sto sempre cambiando baracchino, ti sento benissimo, buona, ottima, ripeto, questo è il presidente McKinley, ma lo piccolo, sembra un 48, c'ha di tutto e di più, molto molto completo. Quindi stanno vaccinando gli over 80, ho capito, mamma mia, se ne ha compiuti 78 da poco. Io sto temendo anche per mamma, perché i vaccini sono assai ambigui, Giulio. Cioè, non tocchiamoci le balle, uno non muore di Covid, muore di vaccino. Sì, sono vari casi, dicono che è accettabile, sempre tutto accettabile, il rischio a patto di non essere quello che ci capita, però. Avete sentito, sì? Sì, abbiamo sentito che da lunedì siamo in arancioni. Che gente deficiente, per carità, quanto mi incazzo. Quanto mi sto incazzando, guarda. Non hanno capito niente, e questo lo sapevo. E questo lo sapevo. Addirittura matrimoni in Sardegna, attenzione, matrimoni e feste. È una vergogna, appunto, è quello che stavamo parlando. Di quello stavamo parlando. Me l'ha appena notificato mia figlia. Ma detto, guarda che da lunedì saremo ad Arancioni. Non è possibile, non è possibile, e questo è un danno per la Sardegna, perché il lavoro incomincia a subirne le conseguenze, poi tutti gli imprenditori, tutti i negozi eccetera, perché metteranno delle restrizioni, e anziché chiudere a una certa ora, adesso ti faranno chiudere di nuovo alle 6 di sera, di conseguenza anche i ristoratori e tutti quanti, mare eccetera, per cui il lavoro va a farsi benedire. No, non è possibile, ragazzi, è difficile uscire da questa situazione, perché ci sono troppi incontri. incoscienti dalla vita, la qua. Guarda, io più che incoscienti, Giulio, li chiamo imbecilli, capito? Imbecilli, perché non sanno tutelare neanche la loro regione. Allucinante, veramente. Un disastro totale, guarda. Mi dispiace sempre per gli operatori e quelli che hanno attività, guarda. Mi dispiace tantissimo, siamo da nuovo punti a capo, va bene, ok, dai, io vado che è tardi, Marco riprendi, ciao. Sì, ma li ho visti anch'io in tanti bar di Sassari, cioè in un tavolino, un metro per un metro, qua, un metro per un metro, quattro piccine e piccini usati. Lì distanziamento non ce n'è, mascherine logo, cioè abbassate, anche quando parlavano, non solo per bere e roba del genere. E i giovani soprattutto, sino a futtini, vabbè. E quindi il vaccino sembra essere l'unica soluzione per chi ci crede. Io un poco ci credo in questo vaccino, comunque. Va bene. Sì, è un casino veramente per tua figlia che c'ha quel tipo di attività lì. È un vero casino. Guarda, stanno sfibrando proprio la pazienza delle persone. Sì, ma tu immagina che le persone, grazie a che stanno lavorando, ad esempio come la figlia di Claudio, che naturalmente avendo un'attività è piena di spese, compreso affitto, bollette di vario genere, eccetera, eccetera, tasse, eccetera. Come si fa andare avanti se tu li riduci gli orari di lavoro? Anziché farli incassare 10, li fai incassare 3, 4, 5 massimo. No, non è possibile così, non si può andare avanti in questo modo. Questo qui è uno scoraggiamento totale per tutto il mondo imprenditoriale, no? Perché a questo punto tanta gente è anche costretta a chiudere. Tu immagina se gente che fa da 3, 4, 5 mila, anche 10 mila euro al mese di affitto, non è possibile che si possa andare avanti in questo modo. Come fai? Come fai a sostenere le spese? Non ce la puoi fare, non è una maniera più assoluta. Ma anche se uno ha tanti soldi per poterli pagare, non li pagherà mai, perché? Perché quello che hai guadagnato poi si rispenderebbe così, pagando solamente senza incassare niente. Non è possibile, Marco. Purtroppo siamo in una nazione di deficienti, nel vero senso della parola. Proprio da imbecilli, proprio, ma a tutti i livelli, da partire dalla Sardegna per tutto il resto dell'Italia anche. Purtroppo è così, no, assolutamente, no, non va bene, avanti, vai Marco. Ma è strano, ma il governatore Solinas non aveva ordinato, tra virgolette, sempre molto aleatorio, il tampone obbligatorio per chi atterrava qua in Sardegna o arrivava con i porti? Cioè, o è gente sfuggita ai controlli oppure li hanno fatti alla carlona. Sempre premesso che una cosa così fatta da sindaci, così, cioè una cosa, non te lo so spiegare. Guarda, non ne stanno facendo i controlli. Guarda, c'è diciamo che ho un certo contatto con Urbia, ad esempio, no? Eppure persone di Urbia mi hanno detto, dice, controlli assolutamente, e anche intervistate le persone che sono arrivate. Dice, io sono arrivata così, sono venuta qui per fare le vacanze, per le Pasqua, eccetera, ma non ho visto nessun controllo all'aeroporto. Non ne hanno fatto. Entra la gente così, senza nessun problema. Perché? Perché non ci sono i controlli. Purtroppo è così. Che cosa vuoi che ti dica? No, non è possibile, guarda. Non è assolutamente possibile. Siamo completamente fuori di testa a questo punto. Non è possibile veramente. Anche a livello di amministratori, eccetera. Non sono capaci di amministrare, nello senso della parola. Proprio sono totalmente incapaci. Ma questo a livello nazionale, a livello provinciale, a livello regionale, a livello a tutti i livelli. Non sono capaci. In Italia non c'è un elemento, un uomo che possa saper amministrare in maniera efficace e efficiente la situazione della nazione. Non c'è niente da fare, guarda. Purtroppo è così, Marco. Non è facile, però è una situazione anche che non si creava da quant'è, 100 anni, dai tempi erano anche altri tempi, dell'influenza quella tremenda, la spagnola. questo è un po' diverso. Sai cos'è, Giulio? Che tutte queste ordinanze, sindaci, cose, sono tutte sempre cose subordinate comunque a leggi statali, per cui se non c'è una legge dello Stato che ti obbliga a fare il tampone, non sei obbligato a farlo. Non c'è cosa di sindaco né di governatori che possono imporre il cosiddetto trattamento sanitario, che sia tampone, che sia vaccino. E intanto cosa fanno? Ti sequestrano al porto, alla stazione, senza farti sbarcare? Non credo sia fattibile, perciò non ne fanno controlli. E per fortuna non è fattibile, se no si potrebbero fare molte più cose contro la nostra volontà, a tutti i dinni. Sì, ma l'ultimo decreto di Solina era che ai porti, agli aeroporti, eccetera, ci sarebbero dovuti essere dei controlli severi. Se una persona non ha il certificato che aveva fatto 48 ore prima l'esame, per un pagliaccio è visto. L'avrebbero fatto loro, però avrebbero dovuto fare 10 giorni di quarantena. E invece, a quanto sembra, qui la gente entra e esce. Addirittura quei ragazzi, che tra l'altro sono stati denunciati, quei ragazzi che ci hanno fatto il permesso loro online, ci hanno fatto così, fasullo, falso. Non è, ecco, arriva anche a questo la gente. No, non è possibile, guarda, non c'è rimedio, non c'è rimedio. Tu puoi fare multe, puoi fare quello che ti pare e ti piace. Non c'è polso da parte delle autorità. Se le autorità avessero avuto polso come si deve, io penso che queste cose si sarebbero evitate. Invece non c'è polso da parte delle autorità, a tutti i livelli, però, regionali, nazionali, eccetera, eccetera. Per cui è così, cosa volete dire? L'altro giorno c'era l'Inter a Torino e c'era un assemblamento per andare a salutare giocatori dell'Inter, migliaia e migliaia di persone, uno attaccato all'altro per salutare i giocatori perché dovrebbero giocare la partita. Ma quando mai? Ma ci vuole proprio molto a capire che è una cosa assurda fare certe cose. E guarda, la imbecillità delle persone, non c'è niente da fare, non c'è rimedio. Non c'è rimedio e non c'è nessuno che vi obbliga a comportarsi come si deve. Come si deve. Vai o ciao Anto, vieni avanti pure. E Solinas, purtroppo, te l'ho detto, sono tutti provvedimenti, ordinanze però subordinate alle leggi dello Stato. C'è una scala gerarchica, non è che può scavalcare le leggi o la Costituzione, così è la storia. Vai, non è nemmeno colpa sua, perché è come la Meloni, Giorgia Meloni. Si lamenta di tutto quello che fanno gli altri, tutto, e lei cosa avrebbe fatto al posto loro? Cosa avrebbe fatto? Non ti dico la parola mia, cosa avrebbe fatto? Vai Anto. Buonasera a tutti, dai. Io dico solo una cosa, che sono una massa di pagliacci e boh sono, cosa a cavolo stiamo dicendo? Cioè, se avrebbero voluto fare, anche dal governo, l'avrebbero fatto. Perché io essendo lì, sai cosa avrei fatto io, lì al governo? Come avrei sentito le prime avvisaglie quando l'avevo letto che vi era chissà cosa? Lei ha bloccato tutto da nascere, prima di tutto. Siccome non gliene è mai fregato niente, adesso ci stanno pagando tutte le conseguenze. Poi, chi c'è un Covid bisogna vedere se, come dicono, c'è un altro coso di interessi, cioè, per carità. C'è, guarda che in ogni crisi ci sono i soliti sciacalli che si arricchiscono, compreso il patron di Amazon, e dice che si è arricchito a dismisura, già era ricco sfondato, no? Il patron di Amazon adesso ha cambiato, mi pare che l'ha ceduta, dice che è diventato ancora più ricco e ancora più sfondato, capito? Una cosa folle, c'è molta gente che si arricchirà con questi vaccini, con le mascherine, anche in trallazze, no? Attori, politici che hanno trafficato con mascherine un po' ambigue o non regolari, e ce n'è di roba, ce n'è, vai Giulio. Anto, ciao a tu. In effetti uno lo può anche pensare, io non lo dico, però lo penso, l'ho pensato, perché ci possono essere delle persone che hanno degli interessi reagire la gente in questo modo. Io non lo affermo perché non lo so e non lo dico perché non lo so, non so niente, però l'ho pensato, nessuno mi impedisce di pensarlo. Purtroppo è così, va bene, sono le 8:10, io devo scendere per la cena, devo scendere, ti lascio con Antonio Marco. Continuate pure, grazie per la chiacchieratina, dai, ci sentiamo domani naturalmente. Ciao Marco, ciao Antonio, oh, ben entrato, tu si sa, arrivi a quest'ora perché hai appena terminato il lavoro e vi lascio in compagnia, siete in bella compagnia tutti e due. Avanti Marco, ascolto fino a lì e poi chiudo. Ok, ciao ciao, ciao Antonio, ciao Marco. Ciao. Ciao Giulio, ci sentiamo, dai, buonasera, buon tutto e ci sentiamo alla prossima. Io poco sto entrando e oggi è stata un po' un'eccezione. Ci sentiamo alla prossima, vai per i saluti Antonio. Capo, saluto a Giulio, ce la risentiamo alle prossimine. Ciao ciao. Beh, così Antonio, anzi meno male. Tu hai un lavoro che bene o male ti permette comunque di lavorare, ma io ho sentito, non so se sia vero, così ha scritto la Nuova Sardegna, che le palestre sarebbero chiuse da quando è iniziato il Covid, c'è un anno, credo che abbiano fatto un anno, e questi stanno pagando, presumo, tasse, affitti, perché non ha la proprietà del locale, però non sta lavorando, è una cosa, e dice che i politici non hanno risposte e non le danno, come sempre, si chiudono. Si dileguano, capito? Se cerchi risposte non le danno, non le danno, non ne hanno. Sono qua, dovevo andare da mia figlia ma non ci vado, mangiarmi un pezzo di torta con la festa del papà. Ho talmente un'incazzatura che non vado da nessuna parte. Una roba la mattina. Ma quando l'hai saputo? Stasera stesso? No, poco fa, mi ha chiamato mia figlia, allora gli arriva dal Confcommercio. Poco fa l'ho saputo, dovevo andare lì alle 8. Un pezzo di torta, ho organizzato una cosettina, un tono ci vengo, portalo a casa, ce la mangiamo a casa quando ho detto. Roba davanti, cazzo, roba davanti, veramente roba davanti. So pagliacci, so. Ma voi, avanti mi fa tenere di, ognuno si fa tirare a guipa, avanti ci do chi do, 5 stelle e denti a guipa chi sto. Ma voi cosa capo l'avete fatto? Ma che non va ammazzetti, brutti pagliacci? Cioè, cazzo, che non è valente, in quanti siete non è valente, uno non è valente, ma dai. Cioè, uno si dà la colpa con l'altro, ma voi siete pagliacci? Anto, non è stato fatto quello che si doveva fare, zona bianca, perfetto, dobbiamo ancora indossare la mascherina, perfetto, più controlli, ma soprattutto un lockdown, se i bar chiudono alle 9, dalle 10, lockdown totale per tutti, c'è troppa gente in giro, feste, festicciole, matrimoni, feste di compleanno, crescine, battesimi, anni combinando di tutto, tu immaginati che in Piazza d'Italia, il giorno della pentolaccia, c'era la piazza piena di gente, lockdown, e boh, solo così ci potevamo salvare. Oh, Claudio, per me è una cazzata enorme. Cosa cazzo lockdown? Sono dei bugiardi, devono dire la verità, devono dire la verità e basta. Finiamola con queste pagliacciate, devono dire la verità. Covid, mi sarà che caso, ma non è così. Vogliono fare gli interessi di chissà che cosa. È una cazzata enorme. Poi quello che hanno promesso non l'hanno fatto, ma di cosa vorremmo fare ancora? Ma dai. Non hanno fatto niente, c'è gente che deve ancora ricevere la cassa integrazione di dicembre e siamo a fine marzo, ma vi rendete conto, pagliacci, veramente pagliacci, sono dei grandi pagliacci, capito tu, sono dei grandi pagliacci, e sottolineo pagliacci, dal presidente della regione sarda al presidente del consiglio, sono dei pagliacci, tutti sono dei pagliacci, vai Marco. Io guarda già come avevi descritto la storia della pentolaccia giorni fa, quant'era? 2 settimane fa, e Io me lo immaginavo che comunque sarebbe stato un rialzo dei contagi. Ma si vede, ma guarda che qua. Ma c'è cazzo contagio, e finiamola. Dovrebbe essere 10:30 il coprifuoco. Io sento continuamente macchine che passano in Viale Trento a ora tarda, gente, anche il portone che torna tutte le ore, il giorno e la notte, a tutti i dimmi. I furbetti del quartierino io li chiamo, mi capito? Però per i menefreghisti siamo sempre andando e torna, andando e torna. Quanto è durato il bianco? 2 settimane, 10 giorni, quant'è? 2 settimane mi pare. Guarda, non lo so, so solo che è veramente un casino di nuovo, adesso sbattono alle 6, c'è metà dell'incasso, tutte le cose. È veramente un casino, dai. È una cosa che non si può descrivere, per chi ha un'attività è veramente una cosa vergognosa. Ma tu immaginate che dalla prossima settimana dovevano aprire i cinema, dovevano aprire i teatri, dovevano riaprire le palestre, perché io c'ho un sacco di amici che hanno la palestra ed erano contentissimi. Ecco qua, finiti i giochi, hanno riaperto i circoli e i circoli non andavano aperti perché non c'è nessun controllo. Ehi, a proposito di palestra, Giulio le ne stavo accennando, sulla nuova ho letto che sarebbero chiuse da un anno le palestre, ma è vera questa cosa? Cioè un anno a pagare tasse, a pagare affitti e lavoro zero, così è. E si conferma, vai Antu. Papà, per me sono anche dei pagliacci sono, stanno dicendo un mucchio di minchiate, stanno dicendo, ma lo sa chi cazzo dove devo lavorare, scusate se parlo male, quei dottorini che hanno assunto fanno lavorare, ecco cosa vogliono far lavorare loro, quella gente lì vogliono far lavorare, non di certo il barista che si fa un mazzo così dalla mattina alla sera e non di certo altre categorie. Ma smettiamola, vogliono fare apparire poi tutta che per un Covid, per, secondo me è così e basta, come sto dicendo io, ma che la smettiamo, dai, se avrebbero voluto fare qualcosa già da nascere l'avrebbero bloccata la cosa, siccome non ne ha puntino da nessuno burro, cioè questo aveva promesso che bloccava i porti, aveva promesso che facevano tutti i controlli, tutte le cose. Pagliacci. Naturalmente la televisione si guarda bene dal dire dal dire i veri motivi dei suicidi che ci sono stati in quest'ultimo anno. Gente che non ha potuto lavorare, gente che è uscita di testa perché non potevi uscire di casa, gente che si è suicidata o da sola o ammazzando anche i figli, roba del genere. Non lo dicono i motivi, cioè i motivi economici si presume. E chissà da cosa hanno origine i motivi economici. Vai Claudio. Esatto Marco, esatto, sono motivi economici, perché quando uno non ce la fa e c'è la disperazione totale, subentra anche quello, uno diventa pazzo, esce fuori di testa, è veramente come dice Antonio, sono pagliacci e basta, sono pagliacci, perché io posso capire che c'è questa pandemia, c'è sì il Covid, ma non è assolutamente vero tutto quello che sta succedendo, c'è qualcosa che non sta funzionando nel governo, sicuramente, perché c'è un incremento del 100% delle farmacie, della sanità totale, queste mascherine, adesso questi vaccini, c'è un incremento del 100%, per loro però, per il governo, non di certo perché ha un'attività da ristorante, bar e pizzeria e quant'altro, capito? Solo per quello c'è l'incremento, è veramente una vergogna, poi noi non abbiamo fatto il nostro, perché se è salito il tasso appunto di contagio, qualcosa non ha funzionato, da parte di chi? Non si sa, da parte nostra o da parte loro che hanno inventato tutto? Questo è da verificare. Chi lo sa? Casino, sì, come in tutte le crisi gente si arricchita, gente come detto poco fa Antonio, che era multimiliardario è diventato ancora più ricco, ancora più sfondato, capito? Vai Antonio. Ma quello è quello che sto dicendo io, ma ti rendiamo conto che ci sono pigliando di baruguro questa gentaglia qua, che vogliono presi, a me è fatta una mega galera e buttarti tutti dentro, e date a fare acqua a mangiare a quel mette, a chi ci mette di mezza, cioè, ma stiamo scherzando, stiamo, cioè, cioè, molte persone l'hanno capito quanto è me, la devi venire di dire certe cose, di fare certe cose, se tale malattia c'è stata, la colpa è di loro, cioè la colpa di loro che hanno fatto entrare i cani e porci, e non ci ricordiamo più di chi si grandestini.